9 in punto. Bentornati a 9 in punto. All'articolo 1 della Costituzione afferma: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è il fondamento della istituzione Repubblica Italiana, un fondamento di cui in questi giorni si parla molto come prospettive politiche, sui poteri del Presidente della Repubblica, sulle possibilità di sciogliere le Camere, di formare un nuovo governo, di cercare nuove maggioranze. Quali sono questi poteri? Come il Presidente della Repubblica può e deve muoversi in caso di crisi? Che cosa può avvenire? La Costituzione prevede queste cose, ma le prevede in maniera appunto schematica. Ovviamente poi l'applicazione deriva dalla necessità politica del momento. Però su questo fronte, se esistono una Costituzione formale, una Costituzione scritta, una Costituzione appunto scritta nella legge e scritta appunto delle parole approvate più di 50 anni fa, più di 60 anni fa anzi, dai costituenti, e che queste parole abbiano bisogno di un'interpretazione, hanno bisogno poi di essere calate nella realtà politica. Ecco, su questi temi si sta dibattendo anche a lungo. Ci sono soprattutto, direi, due impostazioni, che poi vedremo se sono due impostazioni veramente conflittuali, che sono emerse sui giornali di ieri. Piero Stellino, che abbiamo in linea, buongiorno Stellino. Buongiorno, buongiorno. Editorialista del Corriere della Sera, ha scritto un articolo in cui si parla di una ragione formale di chi sostiene le regole del sistema istituzionale e di una ragione sostanziale, che è quella della rappresentanza popolare. D'altro canto, Michele Ainis, buongiorno Ainis. Buongiorno. Costituzionalista, ha scritto sul Sole 24 Ore un articolo in cui si dice: di Costituzione ce n'è una sola. Allora, vediamo di capire innanzitutto se esistono due costituzioni, una formale e una sostanziale, o semplicemente una costituzione materiale che va comunque interpretata. Ostellino, la interpretazione autentica del suo articolo. Ma l'interpretazione autentica del mio articolo io la ricavo dalle decine di email che ho ricevuto dai lettori. Ora, voi tutti sapete che in democrazia il solo modo di cacciare dei cattivi governanti è quello di votare, cioè quello di andare a votare. Bene, io ho ricevuto decine di email di italiani che mi dicono: noi non vogliamo votare, noi vogliamo che Berlusconi sia cacciato in un altro modo. Siamo l'unico paese al mondo dove i cittadini non vogliono votare. E questo è l'effetto di una pessima Costituzione, che poi sia l'unica Costituzione che c'è e che quindi vada rispettata, perché fin tanto che le Costituzioni ci sono vanno rispettate, è un altro paio di maniche. Ma resta il fatto che è una pessima Costituzione, figlia di un compromesso, lo scriveva persino Cossiga, cioè un uomo che è stato Presidente della Repubblica, un grande uomo di Stato. Però era anche un uomo che aveva il coraggio delle sue idee, mentre l'Italia è fatta di ipocriti che continuano semplicemente a nascondersi dietro il dito dell'ipocrisia. Questo, la nostra Costituzione ricalca le costituzioni, o meglio, ricalca le monarchie costituzionali dell'Ottocento. Ma lei lo vede la regina d'Inghilterra che, quando il presidente, il primo ministro va a portargli una legge, questa dice: no, guardi, non mi piace, veda un po' di cambiarla. Ma in Inghilterra il primo ministro, quando non ha più la maggioranza in Parlamento, va dalla regina e avverte che scioglierà le Camere, per il semplice fatto che la democrazia liberale inglese è fondata sulla sovranità popolare. Noi abbiamo una repubblica fondata sul lavoro, cioè su una merce, frutto di un compromesso tra i comunisti di allora, i dossettiani e i rarissimi liberali o i democristiani moderati che c'erano. Beh, come, indubbiamente, Ostellino, è figlia di quel tempo, ed ormai sono passati 60 anni. Indubbiamente la Costituzione risente di quel tempo, è nata da un momento in cui era necessario superare la monarchia, ma soprattutto superare il fascismo, era necessario mettere in fondo in sicurezza la Repubblica, dare delle istituzioni in cui non ci fosse la tentazione dell'uomo forte, in cui ci fosse un equilibrio di poteri, e indubbiamente per 60 anni questa Costituzione ha garantito questo paese una sostanziale stabilità, pur nel fatto che che anche nella Prima Repubblica, poi non so se veramente è finita la Prima Repubblica, c'era un'alternanza di governi. Ma adesso è realisticamente possibile, Ostellino, pensare di cambiare i principi fondamentali della nostra Costituzione? Con questa classe politica temo proprio di no, perché il livello di questa classe politica non è certo uguale al livello dei costituenti del 47, cioè allora c'era una classe dirigente del paese che aveva ancora nel sangue, nel DNA, la tradizione liberale, cioè gente che aveva una cultura istituzionale molto forte. Oggi abbiamo una classe dirigente che fa semplicemente pena, e quindi dare in mano a questa classe dirigente, a questa classe politica, una nuova Costituzione, chissà cosa ne verrebbe fuori. Però resta il fatto che l'esigenza rimane. Cioè lo stesso Jefferson, una volta che fu approvata la Costituzione americana, prevede che nel tempo dovesse essere in qualche modo cambiata. Loro non l'hanno cambiata, ma l'hanno cambiata attraverso gli emendamenti. Gli emendamenti sono l'aggiornamento della più grande Costituzione che esista al mondo e la più vecchia Costituzione che esista al mondo. Noi non la si vuole toccare perché si ha un'idea, autoritaria della democrazia. La nostra democrazia non è fondata sulla sovranità popolare, è fondata sui suoi rappresentanti, ma i suoi rappresentanti hanno solo l'esercizio della sovranità popolare. La sovranità popolare è nel popolo. Ma noi non si ha fiducia nel popolo, o meglio, coloro i quali difendono ancora questa Costituzione hanno una concezione trasformistica, elitaria e fondamentalmente autoritaria della democrazia, perché non credono nel popolo. Io sono un vecchio liberale e quindi come tale dovrei essere elitario anch'io, visto che i liberali sono tacciati come tali. Invece sono un vecchio liberale che crede nel popolo, cioè il popolo ha il diritto di dire la sua di far sentire la sua voce nei casi di crisi. E invece in questo caso abbiamo degli italiani che dicono: noi non vogliamo votare perché ci penseranno i nostri rappresentanti a cacciare Berlusconi. Ma che razza di democrazia è mai questa? Beh, è una democrazia che comunque ha prodotto questa classe politica che bene o male rappresenta il paese. Dobbiamo anche in questo, possiamo poi giudicarla male, come fa Ostellino, come in parte sicuramente farei anch'io, ma indubbiamente è una classe politica che ha il compito di rappresentare appunto la sovranità popolare. Michele Ainis, costituzionalista, Università di Roma 3, editorialista del Sole 24 Ore e della Stampa. Questa Costituzione è veramente una Costituzione da buttare? Ma io, a costo di passare per un reazionario, non trovo affatto che la nostra Costituzione sia pessima. Che poi ci sia la possibilità di aggiustamenti, questo vale sempre, vale per tutte le cose. Ma i principi fondamentali rimangono vivi e direi anche il primo articolo della Costituzione che citava poco fa il direttore Ostellino. La Repubblica fondata sul lavoro non è una formula dietro la quale ci sono i proletari armati, insomma, ma il lavoro è la principale sorgente di significati esistenziali. Ciascuno di noi ha un ruolo sociale per il suo lavoro, perché il lavoro significa un servizio per gli altri. In questa Costituzione, che ha un'impalcatura liberale ed è una Costituzione di compromesso, e meno male, le Costituzioni non possono che essere di compromesso, altrimenti sono quelle sì autoritarie, cioè muscolari, insomma, una parte la impone sull'altra. Diceva Hans Kelsen: la democrazia in sé è compromesso, però prendiamola questa parola non in senso deteriore, cioè come sforzo di dialogo e di ascolto delle ragioni altrui. In quella stagione politica ci furono le condizioni storiche perché si realizzasse questo reciproco ascolto. Erano forze politiche, i cattolici, i comunisti e i liberali, molto divise dal punto di vista delle loro piattaforme ideali, però avevano un vissuto comune, erano passati attraverso l'antifascismo, le persecuzioni del regime, una guerra e una guerra civile. E questo vissuto comune gli ha consentito un momento di unità. Quindi il fatto che questa Costituzione abbia la capacità di ospitare principi all'epoca condivisi, e direi dovrebbero esserlo ancora oggi, è una sua qualità, non un suo difetto. E poi vorrei anche aggiungere che io ho letto l'editoriale di ieri del direttore Ostellino, c'era una critica sostanzialmente all'articolo 67, quello che pone il divieto di mandato imperativo. Sì, perché è lì tutto. Se in Parlamento si possono disfare i governi e farne di altri, questo può accadere perché i parlamentari non sono condizionati da una direttiva vincolante dei loro elettori. Ora, questa è una norma liberale che si trova in tutte le costituzioni liberali. La norma opposta, quella che mi pare il direttore aveva più a cuore, è una norma giacobina o comunista, cioè il vincolo di mandato fu posto da Robespierre e fu posto da Lenin nella Costituzione sovietica del 1918. Ma d'altra parte, perché i parlamentari devono poter avere la possibilità di misurarsi con delle stagioni politiche nuove e quindi trovare delle nuove formule o delle nuove alleanze, perché altrimenti fermeremmo l'orologio della storia oppure ci affideremmo unicamente al capo. Allora, e chiudo qui, dietro questa pretesa costituzione materiale c'è in realtà una formula di democrazia plebiscitaria, non di democrazia parlamentare, ma di democrazia plebiscitaria, che interpreta la sovranità come delega al capo e non come dialettica politica. Ecco, l'accusa di essere comunista è troppo forte per non lasciare a Piero Stellino la possibilità di replicare. Ovviamente per dire un attimo la mia, ma indubbiamente c'è un vincolo di mandato sostanziale, c'è un vincolo di mandato formale, c'è un vincolo di mandato che deriva dalle promesse che il rappresentante ha fatto ai propri elettori e che queste promesse moralmente è tenuto a mantenere. Poi dopo, da un punto di vista giuridico formale, ovviamente si comporterà come meglio crede. Piero Stellino. Ma io, sarà che sono un grande ammiratore della Gran Bretagna, insomma dell'Inghilterra, soprattutto dell'empirismo inglese, ma non mi sembra che il sistema istituzionale inglese sia stato scritto da Lenin o dai giacobini. Anzi, cioè, quando il primo ministro inglese scopre che in Parlamento non ha più la maggioranza, perché all'interno del suo stesso partito, della sua stessa maggioranza, sono venuti meno i voti, va dalla regina e dice: io non sono più in grado di governare perché non ho più la maggioranza e ridò la parola al popolo. Questa non mi sembra una democrazia plebiscitaria, quella inglese. Se c'è una democrazia, come dire, moderata e certamente non giacobina, questa è quella inglese. Cioè, io non sono dell'opinione che, come dire, il vincolo di mandato debba essere più o meno cancellato. Resta il fatto però che il vincolo di mandato, cioè l'assenza di vincolo di mandato, consegna la sovranità popolare alle oligarchie presenti in Parlamento. Cioè, a questo punto è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Chi decide ad un certo punto di cambiare completamente maggioranza e, rispetto alla maggioranza uscita dalle urne, farne un'altra, sono le oligarchie di partito. Ed è questa la ragione per la quale, anche sotto il profilo giornalistico, coloro i quali sostengono questa tesi hanno una concezione elitaria, trasformistica e fondamentalmente autoritaria della democrazia. Cioè, è inutile che in Italia i progressisti, i conservatori o addirittura i reazionari si mascherino da progressisti. Sono dei reazionari e sono dei conservatori. Questa è la nuda verità. Cioè, quando un signore come me, un liberale da 60 anni, scrive un articolo in cui mette a confronto le due concezioni della democrazia, cioè la sovranità popolare e invece la capacità del Parlamento di cambiare le maggioranze, riceve delle lettere di cittadini italiani che non vogliono votare. Siamo l'unico paese al mondo dove c'è gente, e sono tanti, che dicono che non vogliono votare. Ma io sono vissuto in paesi dove non si poteva votare, come l'Unione Sovietica e la Cina. La gente non desiderava altro che di poter decidere del proprio avvenire. Noi abbiamo una democrazia dove gli italiani non vogliono votare perché vogliono che caccino Berlusconi i propri rappresentanti, cioè di una parte politica, per il semplice fatto che continuiamo a vivere la nostra democrazia come Guelfi e Ghibellini. Ecco, ma è possibile questo? C'è anche un problema sul voto, che il voto con questa legge elettorale è un voto che comunque è pilotato da quelle che giustamente Ostellino chiama le oligarchie dei partiti, perché le scelte poi che vengono compiute dagli elettori sono scelte certamente pilotate, non ci sono più le preferenze, non c'è più il rapporto diretto tra i cittadini e gli eletti, e quindi i partiti hanno un ruolo molto forte, molto più forte di quanto probabilmente lo prevedevano gli stessi costituzionalisti. Quindi per questo forse si parla di un governo di transizione che cambi la legge elettorale e che poi porti il paese alle urne, però su questo fronte sarà difficile trovare una maggioranza. Però l'espressione del popolo è comunque un'espressione che deve avvenire attraverso delle formule e delle tecniche elettorali che non sono immediate e semplici, già passando dal sistema proporzionale che ha guidato la Prima Repubblica al sistema maggioritario. Abbiamo visto che qualche danno alla espressione della sovranità popolare c'è stata. Professor Ainis, su questo fronte un governo tecnico che cambi la legge elettorale è costituzionalmente possibile? Ma guardi, io faccio una dichiarazione di voto, anzi di non voto, se mi chiederanno per la terza volta consecutiva di andare a votare con questa legge elettorale, io non andrò a votare, o meglio andrò a votare e metterò una scheda bianca, dato che il voto è anche un dovere civico. Quindi questa mi sembra una emergenza, la vedo difficile, perché poi alla fine questa legge conviene a tutti, conviene ai signori dei partiti, di tutti i partiti, che possono promuovere i loro maggiordomi, e ormai la prima virtù civica è diventata l'obbedienza, non l'indipendenza intellettuale. Invece, tornando alla sovranità, ma certo, la sovranità popolare, chi non è d'accordo su questo? Il punto è, la Costituzione dice che il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione. Perché c'è questa parola limiti? Perché tutta l'esperienza dello Stato di diritto, che è un'esperienza bisecolare, prende l'avvio con le Costituzioni di fine Settecento in Francia e negli Stati Uniti, è un'esperienza di contrappesi al potere, cioè è il tentativo di limare le unghie al potere, perché chi ha potere generalmente tende ad approfittarsene. Da qui gli organi di garanzia, da qui il ruolo del Capo dello Stato, della Corte Costituzionale, eccetera. E perché anche c'è una lezione che l'umanità, insomma, ha sperimentato al tempo del processo a Gesù. Alla folla fu chiesto: chi volete crocifiggere, Gesù o Barabba? E la folla disse Gesù. Ma d'altra parte anche Hitler andò al potere con il consenso maggioritario dei tedeschi. Insomma, la storia è piena di voti che poi sono stati infelici. Da qui l'esigenza di introdurre una serie di garanzie, insomma, di antidoti agli umori della folla. Questo non significa non voler votare, significa, poi in questo caso è una maggioranza che si è sfaldata, mica è stata l'opposizione significa però, ecco, se dobbiamo di nuovo andare a votare, perché non esiste nessun'altra maggioranza possibile, nemmeno per proseguire la legislatura, ma insomma speriamo che almeno questa legge elettorale si possa modificare. Ecco, indubbiamente questa è una speranza, che la legge elettorale si possa modificare. Sarà complesso e difficile, anche perché il tema di fondo, mi sembra, poi in questa fase del dibattito politico è quello di quale governo potrà portarci alle elezioni, perché ovviamente l'attuale governo, Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio, vorrebbe, in caso di scioglimento delle Camere, arrivare, cioè essere rimandato alle Camere, avere la sfiducia e portare il Paese alle elezioni. Ma un'altra strada potrebbe essere quella del Presidente della Repubblica, che cerca un'altra possibilità, che nomina un cosiddetto governo tecnico di sopra delle parti. È già avvenuto in passato col governo Ciampi, è avvenuto col governo Dini, di cercare in Parlamento una maggioranza, e se il Parlamento votasse la sfiducia a questo nuovo governo, sarebbe comunque questo nuovo governo a portare il Paese alle elezioni, perché in Italia la stessa Costituzione prevede che il governo entra in carica al momento del giuramento, dopo la designazione del Capo dello Stato e la scelta dei ministri, e non al momento della fiducia. Quindi, nonostante la sfiducia, il governo resterebbe in carica, si dice normalmente, per il disbrigo degli affari correnti, per l'ordinaria amministrazione, ma nella Costituzione non c'è nulla che spieghi cosa siano gli affari correnti e l'ordinaria amministrazione. Quindi il nodo della discordia è in fondo questo: quale governo potrebbe portare il paese alle elezioni? Un governo tecnico potrebbe tentare di fare una legge elettorale nuova, un governo attuale, il governo attuale fondato appunto sulla maggioranza tra PDL e Lega, come hanno detto molti esponenti, non ha nessuna intenzione di cambiare la legge elettorale. Vorrei chiedere su questo fronte a Gianfranco Pasquino. Buongiorno professor Pasquino. Buongiorno. Professore di scienza politica all'Università di Bologna, un passato anche di senatore nel Partito Democratico, forse nel PDS allora. No, non nel Partito Democratico. Nel PDS? Sì. Esatto. Allora era il PDS e quindi qualche anno fa, non molti. Comunque, professor Pasquino, come vede la prospettiva di un eventuale governo tecnico per cambiare la legge elettorale? Ma a me pare tutto un pasticcio difficile da disbrigare. Credo che la legge elettorale debba essere cambiata. Mi piacerebbe un sussulto di saggezza dentro le file del PDL, e che dicessero loro, perché lo sanno che questa è una legge elettorale che non funziona, sono riusciti a non fare funzionare Prodi e adesso si trovano a non funzionare loro stessi, e sarebbe carino che togliessero le cose che sono sbagliate. Per esempio, quel premio di maggioranza è probabilmente sbagliato, le lunghe liste bloccate sono sicuramente sbagliate. Se lo sanno, lo facciano loro, evitiamo tutti questi problemi, compreso il governo tecnico apposta per fare la legge elettorale. Fra l'altro, diciamocelo, fra coloro che sono nello schieramento cosiddetto di opposizione, le opzioni di riforma elettorale sono diversissime, già mettersi d'accordo fra loro sarà complicatissimo. La Costituzione, l'attuale fase politica, quali prospettive, la possibilità di fronte a un eventuale sfaldamento della maggioranza, di cui qualche segnale sembra esistere, di nuove elezioni, la legge elettorale da cambiare? Ne stiamo parlando con Piero Stellino, con Michele Ainis, con Gianfranco Pasquino, e ringrazio anche Valerio Onida. Buongiorno professor Onida. Buongiorno. Costituzionalista, ex presidente della Corte Costituzionale, che vogliamo capire all'interno dell'attuale scenario costituzionale quali sono le strade preferibili, anche tenendo conto appunto da una parte del necessario rispetto delle regole di fondo, ma dall'altra anche dell'efficienza. Allora, su questo fronte io vorrei tornare col professor Pasquino. Indubbiamente un sistema elettorale perfetto non esiste, perché un sistema rappresentativo è ovviamente proporzionale, e il proporzionale abbiamo visto che qualche problema ce l'ha un sistema efficiente e maggioritario, ma anche il maggioritario, così come interpretato delle ultime elezioni, indubbiamente qualche problema l'ha creato. Professor Pasquino, quale può essere l'equilibrio? Dunque, è vero che non c'è nessun sistema elettorale perfetto, però è anche vero che ci sono sistemi elettorali preferibili e che funzionano nei rispettivi sistemi politici, con grande soddisfazione dei cittadini, perché questo è quello che conta soprattutto, e poi naturalmente della formazione dei parlamenti e dei governi. Allora, io credo che le due opzioni alle quali guardare siano, da un lato, il sistema tedesco, che contrariamente a quello che alcuni dicono non produce le grandi coalizioni, ma semplicemente le consente. Le grandi coalizioni le fanno i partiti e i dirigenti politici, però il sistema tedesco ha consentito il cambiamento, ha assorbito un numero maggiore di partiti, ha dato vita a un bipolarismo funzionante, a governi stabili e così via. E quindi è inutile fargli le obiezioni che sono sbagliate. Ecco, il sistema tedesco è proporzionale con sbarramento. Esattamente, ed è un buon sistema elettorale. E l'altro sistema elettorale, come lei sa benissimo, dottor Fabi, come la penso, è il sistema elettorale francese. Il francese è doppio turno, magari riducendo la clausola di passaggio da primo al secondo turno, che attualmente è 12,5, mettendola al 5%, che è quella che grosso modo abbiamo già, il 4% da una parte e 8% dall'altra, e incentiva la formazione di coalizioni, consente ai cittadini di scegliere i candidati nei collegi uninominali, e alla fine ha prodotto quasi tutto quello che vorremmo: governi sufficientemente stabili, alternanza, e diciamolo di nuovo con chiarezza, la Francia funziona molto meglio di quello che funzioniamo noi, e dunque è un sistema al quale sicuramente si può guardare. La Francia le due opzioni sono È la quinta repubblica, noi siamo solo a l'una e mezzo. Io, qualche volta mi si dice la storia potrebbe fare dei salti, o no? Senta. Perché si impara, i famosi late comers, quelli che arrivano tardi imparano. Ecco, io vorrei chiedere al professor Valerio Onida, proprio di fronte a queste prospettive, la Costituzione è molto chiara, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, non pone limiti a questa nomina, il Presidente della Repubblica, e questo è messo tra le attribuzioni del Presidente della Repubblica, può sciogliere il Parlamento sentiti i Presidenti delle due Camere. Ecco, la Costituzione è molto esplicita, netta. Quindi sembra che il Presidente della Repubblica abbia la più ampia discrezionalità nel poter sciogliere le Camere e nel nominare il Presidente del Consiglio che vuole. Professor Onida. Certamente questo è vero. Bisogna tenere ben distinti due piani. Quello delle regole costituzionali da osservare sempre e quello, diciamo, della opportunità politico-costituzionale, cioè delle scelte che si possono fare, che è opportuno fare nelle diverse situazioni. Ora, oggi si discute della possibilità che di fronte a un'eventuale crisi del governo in carica si formi un altro governo, ovvero si vada immediatamente alle elezioni. Ecco, sono due possibilità, entrambe consentite dalla Costituzione, perché la Costituzione vuole soltanto che il governo abbia la fiducia delle Camere, quindi se un governo non ha più la fiducia o si dimette o si delinea un'altra maggioranza in Parlamento in grado di dare la fiducia e allora questo nuovo governo si può formare, oppure necessariamente si dovrà arrivare a nuove elezioni. Le nuove elezioni sono appunto nelle mani del Presidente della Repubblica, che però non è che decide a capriccio, ha questa facoltà in relazione alla situazione. Allora, queste sono le regole costituzionali, quindi non c'è molto da discutere su quali siano i principi da rispettare. Poi c'è un problema di opportunità politico-costituzionale, oggi è di questo si discute, dopo elezioni come quella del 2008, nelle quali si è delineata un'ampia maggioranza, se questa maggioranza va in crisi è opportuno formare nuove maggioranze per governi tecnici o governi di altro genere, ovvero andare subito alle elezioni. E ancora, quali potrebbero essere le ragioni per le quali non si vada subito alle elezioni ma si faccia un altro governo? Per esempio, quello di cui discutevate poc'anzi, l'opportunità di cambiare la legge elettorale prima di andare a nuove elezioni. Questo potrebbe essere una ragione politico-costituzionale di opportunità per differire il momento delle nuove elezioni. Ecco, ma da un punto di vista costituzionale, professor Onida, non è un po', diciamo così, un po' una bizzarria il fatto che un governo che non riceve la fiducia del Parlamento, cioè fatto dal Presidente, nominato dal Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio va in Parlamento, gli viene negata la fiducia, questo governo comunque resta in carica per dei mesi per gestire le elezioni, cioè senza aver mai avuto la fiducia. Non sarebbe forse più corretto che il governo precedente, che magari ha avuto la sfiducia, ma comunque una fiducia precedente l'ha avuta, restasse in carica per gestire le elezioni? Non è un po' una scorrettezza costituzionale che un governo possa governare comunque senza avere la fiducia? Ma questo, lei mi sta indicando il presupposto di che un governo si formi e non ottenga la fiducia. È evidente che quando si forma un nuovo governo, questo lo si deve formare con la prospettiva che possa ottenere la fiducia delle Camere. Beh, c'è stato un precedente. Però se la ottiene, bene. Se non la ottiene, si dovrà dimettere e rimanere in carica per ordinare l'amministrazione. Lei mi dice non sarebbe corretto formare un governo che già a priori si sa che non avrà la fiducia. Questo è vero, perché siccome la regola costituzionale è che il governo deve avere la fiducia delle Camere, formare un governo che già si sa a priori che non avrà la fiducia è un'operazione, diciamo, contraria a questo. C'è un precedente, negli anni 70 ci fu un governo Fanfani che venne formato per essere respinto dalle Camere perché si sapeva che si doveva andare alle elezioni, i famosi governi Balneari, però forse questa è veramente preistoria della era prima di differire il momento delle elezioni, certo. Allora in quel momento non era ancora chiara la situazione politica, eccetera. Ma in ogni caso, ripeto, quello che è importante, il principio è che i governi si devono formare per avere la fiducia, non certo formare un governo di minoranza a priori. Ecco, ci sono molti ascoltatori che ci chiedono di intervenire, vi prego di essere brevi e sintetici. Umberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Ah, guardi, io ascoltavo Stellino e mi trovo d'accordo con lui solo su un aspetto. se la Costituzione dovesse essere riformata da questa classe politica, ci troveremmo una Costituzione porcata oltre ad una legge elettorale porcata. E quindi io sono contento di avere la Costituzione che abbiamo e spero che prima ci occupiamo di altro piuttosto che di cambiare la Costituzione. Grazie, ovviamente la Costituzione ha la sua validità. Un aggiornamento è previsto dalla stessa Costituzione, che prevede al suo interno la possibilità di essere modificata, ed è stata modificata in molti punti, ma la prima parte è sempre rimasta intoccabile. Giorgio da Livorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo dire questo, secondo io sono vecchio quanto la Costituzione, pertanto siamo lì, ci capiamo. E secondo me è carta straccia. E le spiego anche perché. È carta straccia perché viene contraddetta tutti i giorni dalla nostra classe politica e da quello che succede. Nella nostra Costituzione c'è scritto che c'è libertà di pensiero, c'è libertà di esprimersi. Poi ci sono leggi in Italia che se non sei allineato con le idee del regime vai a finire in galera solo perché scrivi un articolo, perché guardi la storia da un altro punto di vista. Beh, questo mi sembra un po' eccessivo, mi scusi, libertà di parola. Lei sta parlando... Che la Costituzione impedisca di parlare, cioè la Costituzione dice che si può parlare, in realtà non è vero. Mi spiega perché delle persone devono finire in galera perché vedono la storia da un altro punto di vista o perché scrivono delle cose che non stanno bene a chi governa? No, guardi, mi sembra che non siano casi che avvengono in questa nostra Repubblica. La libertà di pensiero è garantita, la libertà di parola è garantita. Da chi, mi scusi? Lei si sbaglia forse, lei fa il giornalista ma queste cose non le sa. Lei lo sa che c'è una legge Mancino? Lei lo sa? No, lei volte. mi dica una persona che è in galera perché ha scritto semplicemente delle cose che non sono gradite al regime. Una persona, mi dica un nome. Sono andati a finire in galera Furisson. Sono andati a finire in galera perché hanno espresso delle opinioni sulla storia diverse da quelle che sono quelle di regime, hanno fatto anni di galera. Sì, ma e con loro tanti altri storici. Il problema è c'è un problema di apologia di certi regimi, di certe ideologie che la Costituzione giustamente e lo Stato giustamente pone dei limiti appunto a che si faccia apologia di reato, per esempio. Quindi non si tratta di limitare la libertà di pensiero, si tratta di mantenere la libertà di pensiero all'interno di un confronto democratico, ma in questo paese la libertà indubbiamente c'è. Qualcuno dice anche troppa. No, la libertà non è mai troppa, è sempre va esercitata con responsabilità, ma è una libertà che comunque esiste, almeno questa. Marcello da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo soltanto dire che non comprendo come mai sia il problema la legge elettorale, cioè per carità è una porcata, come ha detto qualcuno, non garantisce assolutamente al cittadino di scegliere direttamente il proprio rappresentante, che comunque, lo ricordo, secondo la Costituzione non ha vincolo di mandato, però non c'entra assolutamente nulla con la stabilità, in quanto mi sembra che stia dando governi stabili. Certo, se metà di un partito o una grande parte del partito se ne va da un'altra parte o viene cacciata in questione di punti di vista e fonda un altro movimento, un altro partito, è ovvio che il governo casca, ma non c'entra nulla la legge elettorale. Qualsiasi legge elettorale di fronte a una cosa del genere non potrebbe che prenderne atto. Il problema è più che altro è la Costituzione. La legge elettorale indubbiamente è la cinghia di trasmissione tra il popolo e i suoi rappresentanti. Una legge elettorale appunto che non può essere perfetta ma che può essere efficiente, garantendo il massimo di rappresentanza da una parte e di stabilità della maggioranza che si forma dall'altra, è una legge che garantisce anche una identità e una credibilità alla politica. La politica ha bisogno di essere credibile, non di essere qualcosa di distaccato dalla società, non di essere una casta, non di essere una cricca, ancora peggio. E quindi la legge elettorale in questo senso è importante, perché è una legge elettorale che garantisce un rapporto diretto tra gli elettori e gli eletti, è una legge più efficiente di una legge che ha bisogno della mediazione dei partiti, in cui i partiti poi si comportano in modo autoritario e decidono per cooptazione chi deve andare al Parlamento, chi deve essere un rappresentante del popolo. Luciano da Rimini. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire solo una cosa, perché noi parliamo di leggi elettorali che dopo non contano niente. Il governo, 5-6 ministri, quello che è, no? Propongono una legge e poi dopo va votata con la fiducia. Facciamo che il Parlamento la possa votare, così noi abbiamo messo su dei parlamentari, la votano, poi se va bene, se non va bene, non va bene. Sono nostri, se no con la fiducia vai a, o voti, vai a casa, che cosa vuol dire? E poi dopo ce ne sarebbe anche un'altra. Nella Costituzione esiste il referendum propositivo, perché non fanno le leggi attuative? Così noi possiamo fare un disegno di legge e poi se viene votato naturalmente sarà legge, però noi se no non contiamo niente. No, indubbiamente il problema della fiducia è un tema particolarmente importante, perché blocca la discussione parlamentare, e l'uso della fiducia, del porre la questione di fiducia sulle leggi, è un uso indubbiamente anomalo che si è fatto negli ultimi anni, sia governi di centrosinistra sia di quelli di centrodestra. Il Parlamento dovrebbe essere il luogo in cui si dibatte, si aggiusta, sì, certamente secondo delle logiche anche di maggioranza, ma nulla potrebbe, dovrebbe togliere il fatto che l'opposizione possa dare delle idee e la maggioranza possa accoglierle nel dibattito parlamentare. Ma questa è forse un'utopia, Gianfranco Pasquino? Ma io sono dell'idea che il governo abbia non soltanto il diritto ma il dovere di legiferare con riferimento al programma che ha sottoposto agli elettori, e su questo al limite può anche chiedere la fiducia alla sua maggioranza, perché la sua maggioranza è stata eletta su quel programma. Capisco peraltro le esigenze dell'ascoltatore di Rimini, è giusto naturalmente che i parlamentari si assumano le loro responsabilità, ma ecco che qui torna il problema elettorale, perché con questa legge elettorale un parlamentare dissenziente sa che verrebbe tecnicamente fatto fuori, e se invece la legge elettorale fosse di tipo per esempio maggioritario in collegi uninominali, quel parlamentare sa che potrebbe dire ai suoi elettori: guardate, io ho votato in maniera difforme, differente da quello che vuole il governo, e vi spiego anche perché, e cerco di convincervi, e se vi ho convinto e voi credete che per un solo voto io non debba essere necessariamente sostituito, allora rieleggetemi. E questa legge elettorale invece impone questo conformismo, questo ossequio che è assolutamente tremendo e che non giova neanche alla maggioranza, come si è visto. Bentornati, ultima parte di 9 in punto. Stiamo parlando di Costituzione, stiamo parlando di prospettive del Paese, in fondo stiamo parlando di legge elettorale che è fondamentale perché per rendere effettivo quello che dice l'articolo 1, che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Una legge elettorale che è al centro appunto anche del dibattito, perché se possono esserci molti consensi sul fatto di tornare alle urne per verificare la volontà popolare, ci sono anche molte critiche sull'attuale legge elettorale per la sua capacità di essere veramente un raccordo tra il popolo e i suoi rappresentanti in Parlamento. Michele Ainis, questa legge elettorale andrebbe cambiata? Andrebbe cambiata sì, però anch'io credo come il professor Pasquino che sarà dura, anche perché diciamo, se metti insieme due teste ti tirano fuori tre idee diverse. Io personalmente sarei favorevole al sistema francese, quindi di nuovo mi ritrovo con Pasquino, però siccome non si riuscirà mai a venirne a capo, allora vorrei depositare una proposta e scriviamo una legge di un articolo di due righe: è abrogata la legge Calderoli, rivive il Mattarellum, che aveva i suoi difetti, ma che tutto sommato ha consentito l'alternanza. Non si tratterebbe di riscrivere una legge di sana pianta, ma di fare tornare in vita una legge che già c'era. Poi, se ho un minuto, vorrei anche però aggiungere un argomento circa quello che sarà poi il nodo centrale, temo, nelle prossime settimane, se la maggioranza non recupera il suo afflato, e cioè il ruolo del Presidente della Repubblica: deve o no sciogliere le Camere. Ora, è vero che il Presidente ha un potere discrezionale, ma questo potere è assai meno esteso di quanto può apparire, perché nel momento in cui conferisce l'incarico non lo può dare a Michele Ainis, che non troverebbe nemmeno un voto in Parlamento, deve darlo a qualcuno che possa guadagnarsi una maggioranza. Idem, specularmente, nel momento in cui scioglie le Camere, perché se fosse assolutamente dominus di questa scelta, e allora il Presidente il minuto dopo le elezioni potrebbe dire: sai che c'è, non mi piace sto risultato, adesso sciolgo, e verrebbe fucilato in piazza. Allora, se le Camere sono in grado di esprimere una maggioranza, il Presidente della Repubblica, a mio giudizio, non può scioglierle. Ecco, ma lei comunque nel suo articolo di ieri su Sole 24 dice che il Presidente della Repubblica può stare tranquillo che qualunque scelta faccia è al riparo da quello che qualche parlamentare aveva detto, aveva accusato il Presidente della Repubblica di eventuale tradimento verso la Costituzione, e c'era stata una nota dello stesso Quirinale dicendo: se voi pensate che io tradisca la Costituzione, allora avviate la procedura di impeachment che è prevista dalla stessa Costituzione, di porre in stato d'accusa il Presidente della Repubblica di fronte alle Camere. Quindi non c'è un po' di contraddizione? Il Presidente della Repubblica potrebbe, ma non può. Ma lì veniva in campo questa sciagura del concetto di Costituzione materiale, perché immaginare il reato di attentato alla Costituzione materiale, perché di quello si parlava, no? Non a quella formale ma a quella materiale, è un ossimoro. Poi la Costituzione materiale è quella che materialmente esiste, quella cosiddetta materiale è immateriale, nel senso che nessuno l'ha mai letta, nessuno l'ha mai vista. Ma siccome si era arrivati a dire anche questo, e qui c'è una responsabilità di noi costituzionalisti, non so se il professor Unida è d'accordo, perché questo concetto che venne introdotto da Mortati nel 1940, almeno qui in Italia, ha avuto forse qualche merito, ma a mio giudizio ha provocato più danni che vantaggi, perché ha legittimato, ha finito per legittimare, forse al di là delle intenzioni di Mortati, forse, un ordine costituzionale antagonista rispetto all'ordine formale. Ora, altro è dire che la Costituzione va interpretata nelle diverse stagioni della storia, ma nell'orizzonte di possibilità interpretative che il testo consente. Io non posso da un cavolo far nascere un carciofo, insomma, e invece la Costituzione materiale avrebbe questa pretesa, e noi costituzionalisti molte volte l'abbiamo anche cavalcata quando noi discutiamo di modifiche tacite della Costituzione, e già nel linguaggio dovremmo parlare di violazioni tacite della Costituzione. Insomma, è un vecchio problema, ma poi ha a che fare col senso della legalità. No, ma mi sembra un problema peraltro importante in questa fase in cui si discute appunto di possibili violazioni della Costituzione. Viene tirata in ballo la Costituzione per tante cose, si è parlato addirittura di incostituzionalità dell'accordo di lavoro di Pomigliano, quindi su tanti temi viene si richiama la Costituzione come un elemento, giustamente, come baluardo anche della legalità, come baluardo della convivenza sociale, della possibilità di avviare appunto su binari di correttezza e di equilibrio la nostra convivenza sociale. Ma su questo punto lei ha chiesto anche il parere di Valerio Nida, e chiedo anch'io a Valerio Nida come vede questa possibilità di interpretazione, di passaggio dalla Costituzione formale a una Costituzione poi sostanziale, vissuta un po' secondo la legge comune, che è più del diritto anglosassone che non del diritto romano. Professor Nida. Sono largamente d'accordo con quello che diceva Michele Ainis. Il concetto di Costituzione materiale è stato veramente utilizzato malissimo nel nostro dibattito. Come ricordava Ainis, di Costituzione materiale ha parlato Costantino Mortati per dire che ogni Costituzione ha dietro di sé delle forze sociali, politiche, che la sostengono. Il giorno che quelle forze cambiano radicalmente, una Costituzione non può reggere da sola perché sta scritta. Questo è il senso della Costituzione materiale, ma certamente non vuol dire che possa esistere e che esistano due Costituzioni, una quella scritta e una diversa praticata. Se si pratica qualcosa di diverso, di antagonista alla Costituzione, si viola la Costituzione, semplicemente. E il nostro sistema è un sistema che prevede anche delle garanzie per l'osservanza della Costituzione, l'esistenza della Corte Costituzionale, i poteri di garanzia del Presidente della Repubblica e così via. Quindi bisognerebbe smettere di parlare di Costituzione materiale, di dire che è cambiata la Costituzione perché abbiamo un nuovo sistema politico. È cambiato il sistema politico, ma la Costituzione è sempre quella. Quindi un conto sono le regole costituzionali e un altro conto sono le condizioni politiche che consentono o non consentono di fare certe operazioni. Certo, quindi sicuramente non siamo ancora nella Seconda Repubblica, siamo ancora nella Prima Repubblica con la sua Costituzione, se il sistema politico... Cambiando. Questa numerazione della Repubblica è un altro flagello del nostro dibattito. infatti, io parlerei appunto, come dicevo prima, più di Prima Repubblica e mezza, cioè qualche passo di cambiamento, però il sistema politico dovrebbe anche cambiare la Costituzione se vuole passare da un sistema parlamentare a un sistema presidenziale, che è completamente diverso dal sistema parlamentare. E ci avviamo verso la conclusione, vorrei sentire se riusciamo qualche ascoltatore. Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno, dottor Fabi. Io sono completamente d'accordo su quello che diceva il direttore Ostellino. La nostra Costituzione è una foglia di figo che viene tirata a destra e a sinistra a seconda delle convenienze politiche. Sono d'accordo assolutamente che l'articolo 1 va cambiato. Il fondamento è la sovranità popolare, non il lavoro. Il lavoro è uno strumento con cui l'uomo si afferma, la società evolve, non è un fine. E quindi proprio c'è una stortura iniziale nell'articolo 1 della nostra Costituzione. E poi il discorso della sovranità popolare. È facile trovare gli esempi, Barabba, Hitler, ma la Svizzera per esempio non ha prodotto mai dittature, eppure c'è una consultazione del popolo permanente. E poi la nostra Costituzione, perché osannarla? È largamente inattuata in tantissime parti fondamentali, non ha regolato i partiti, non ha regolato i sindacati, ha fatto una definizione del Consiglio Superiore della Magistratura che però viene assolutamente e costantemente violato. Ecco, stiamo commemorando un grand'uomo che era Cossiga. Cossiga fu l'unico Presidente della Repubblica che ebbe il coraggio di minacciare di mandare ai carabinieri, al CSM, se andava a debordare dai compiti che aveva. Dopo di lui nessun altro ha avuto questo coraggio. Ci troviamo una terza Camera non elettiva che influenza pesantemente l'andamento della vita sociale. Stiamo entrando in un altro tema, mancano due minuti alla fine del nostro programma. Parlare adesso di CSM sarebbe troppo. Lei ha ricordato la Svizzera, io mi limito a ricordare che in Svizzera c'è un sistema della concordanza che è l'esatto contrario del sistema maggioritario e dell'alternanza o della divisione del bipolarismo. In Svizzera si comanda, il governo è fatto con rappresentanti del 90% delle forze politiche. Il dibattito in Parlamento è fatto sulla scorta del pragmatismo più che della divisione ideologica, quindi è un sistema completamente diverso da un sistema bipolare, è un sistema in cui tutti partecipano e in cui le votazioni avvengono certamente magari ogni tre mesi, magari anche solo per decidere se allargare o meno il marciapiede di una città. Nicola da Brescia. Buongiorno, rapidamente. Grazie di avermi chiamato. Senta, per la prima cosa, volevo parlare d'altro, ma per prima cosa le contesto che ci sia una libertà che debba essere dentro dei binari, perché lei all'altro ascoltatore ha detto sì, però una libertà di stampa, una libertà di parola all'interno di certi binari vuol dire che siamo in una dittatura. Non siamo però nella non dittatura, parlare... bisogna rispettare le regole ci sono, mi scusi, io le tolgo la parola, siamo in conclusione, le regole vanno rispettate, ogni Stato di diritto nasce come Stato di diritto perché sono delle regole, le regole garantiscono la libertà, ma la libertà di ciascuno si ferma quando comincia la libertà dell'altro, non ci può essere una libertà assoluta, non ci può essere un arbitrio assoluto, ci deve essere la responsabilità di ciascuno, ci deve essere il rispetto delle leggi, ci deve essere il rispetto delle regole e in questo si può fare una libertà, quindi non si può parlare di regime, non si può parlare di dittatura nell'attuale situazione italiana. La situazione italiana è una situazione di libertà in cui ci sono tanti problemi, li abbiamo discusso molto liberamente questa mattina, ci sono tanti problemi, ci sono tante possibilità di migliorare questa situazione, ma ci sono soprattutto una garanzia di poterne discutere liberamente come abbiamo fatto. Beh, discutere liberamente non può voler dire inneggiare a regimi totalitari, non può voler dire denunciare diffamare le persone, non può voler dire parlare in maniera scorretta, ma ci vuole essere il massimo rispetto, il rispetto soprattutto della libertà di ciascuno e il rispetto delle persone. E questo, su questo fronte si può iniziare a discutere, si può iniziare a costruire, rispettando la verità, rispettando le persone, rispettando soprattutto l'esigenza che un paese ha di crescere senza gli scontri forti, senza gli scontri che non rispettano appunto la dignità della persona. Io non ho più tempo, mi scuso con Michele Ainis, volevo le loro ultime opinioni anche con Valerio Nida, il tempo è passato, ma compassione verso un paese che può crescere nel dibattito corretto, nel dibattito costruttivo. Concludo questo programma e vi do appuntamento a domani, non senza aver ringraziato Carmelo Lauricella in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione.